negozio delle pulci. Al negozio delle pulci. Oggetti in vendita dimenticati, abbiamo tante provenienze, medaglie militari, come espositori, le nostre qualità, cianfrusaglie accantonate, introvabili in città, e siamo tutti immobili al negozio delle pulci, merce barattata dai collezionisti, popolo di artisti, legato ai vecchi dischi, sotto i riflettori, una pioggia di fischi, cerchiamo un professore che possa contraffare le pagelle, siamo in cerca di un affare, passeggiate fra le bancarelle, un vecchio foglio di giornale, lampade in soffitta, leggende metropolitane. Oggetti in vendita dimenticati, abbiamo tutti un numero come lampadari, abbiamo una targhetta, siamo una forchetta perduta per la fretta come carte postali, e siamo foto d'epoca dei bassi fondi, valigia mappamondi, siamo come mobili d'antiquariato, come gioielli in fondo al mare, ritorno alle radici, alla canzone popolare, chincaglieria, siamo oggetti vivi nella tua periferia, siamo come bussole, monete fuori corso, barattate sulla scia dalla polizia, fuggiamo via. Dove vai?